Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultima puntata del 2013 per il nostro programma, la seconda delle feste. Oggi rimanete assolutamente sintonizzati perché vi faremo riascoltare una delle trasmissioni speciali dell'anno che si sta chiudendo. Con la frase della settimana anticipiamo idealmente il messaggio di fine anno della Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Occorre contrastare l'inaccettabile dispersione, al di là di valide esperienze di specializzazione all'estero, dei molti e preziosi talenti formatisi nelle nostre scuole e atenei che costituiscono una risorsa fondamentale per l'avvenire dell'Italia. Questo l'invito di Napolitano, secondo il quale bisogna creare le condizioni affinché le università, gli istituti e i centri di ricerca italiani tornino ad attrarre studiosi e accademici stranieri, arricchendo l'orizzonte di conoscenze attraverso scambi continui con la comunità scientifica internazionale. E come creare queste condizioni, ci chiediamo noi? Può un simile processo passare da un ricambio non solo anagrafico ma soprattutto qualitativo della classe dirigente? Beh, uno spunto di riflessione ce l'offre Banca Italia. In un recente studio dipinge le stanze dei bottoni dei nostri istituti di credito come permeati da consigli vecchi, maschilisti e provinciali, con una capacità mai troppo approfondita di valutare professionalità e reputazione dei propri membri. La presenza delle donne è pressoché inesistente, l'età media dei consiglieri supera i 60 anni ed è scarso pure il turnover. Sono soprattutto rari i casi di consiglieri con esperienza internazionale. La gran parte di loro proviene da imprese del territorio, associazioni di categoria e organizzazioni locali. Insomma, non hanno mai messo il naso fuori dal paese. Solo nel 64% dei casi, pensate, questi consiglieri sono laureati. Aggiungiamo che secondo Eurostat ben il 37% dei manager italiani ha come titolo di studio la sola scuola dell'obbligo. In Europa questa media scende al 19% e in Germania è solamente del 7%, quando lo spread nei titoli di studio della classe dirigente si specchia nello spread economico, è proprio il caso di dire. Menzione speciale per il senatore a vita Claudio Abbado, che ha annunciato che devolverà l'onorario da parlamentare alla Scuola di Musica di Fiesole per l'istituzione di borse di studio. Lo farà, ha detto, nella convinzione che dando valore alla cultura il nostro paese potrà guardare con maggior fiducia al futuro. Abbado intende dare un segnale di sostegno alle forze migliori che l'Italia esprime, allo scopo di coltivare i talenti emergenti e consentire a tutti l'accesso alla formazione musicale di base. E ora spazio alla puntata speciale che Giovani Talenti ha registrato lo scorso maggio a Strasburgo. Siamo andati a conoscere da vicino i nostri giovani al lavoro nel cuore dell'Unione Europea. Sono Vittoria Venezia, ho 30 anni e vengo dalla provincia di Cosenza. Ho una laurea in relazioni internazionali e diplomatiche e attualmente lavoro come consigliere in commissione affari esteri per il gruppo PP. Io sono Gabriele Bertolli, ho 29 anni, sono nato a Rovereto in Trentino, ho studiato scienze della comunicazione e poi studi europei e ora faccio il consulente in affari europei a Bruxelles. Io sono Eleonora Berti, ho 34 anni, vengo da Firenze, ho una laurea in architettura e un dottorato in progettazione paesistica e adesso sono project coordinator per itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Io sono Luca Fossati, ho 35 anni, sono di Genova, ho studiato scienze internazionali diplomatiche, poi ho fatto un master in relazioni internazionali a Milano e attualmente sono consigliere politico in affari economici per il gruppo S&D al Parlamento. L'inno europeo per portarci in atmosfera qui a Strasburgo e partiamo a raccontare la storia di Vittoria. Ti sei presentata a Giovani Talenti Radio24.it come una giovane donna di 30 anni che ha vissuto sin da piccola nell'illusione o convinzione di poter fare nella vita grandi cose, perché in fondo siamo noi stessi a plasmare il nostro destino. Non ti chiederò se ci sei riuscita, ma ti chiedo: l'Italia o più in generale l'Europa sono oggi secondo te luoghi dove un giovane può avere grandi ambizioni? Sì, credo che si debbano avere grandi ambizioni a prescindere, perché questo è il motore che ci fa andare avanti anche in mezzo a mille difficoltà, o almeno per me così funziona e questo è il senso della mia frase. Quindi il fatto che in Italia o in Europa possa essere più difficile non deve né scoraggiare né rappresentare un limite alle grandi ambizioni. Gabriella, te chiedo sull'onda della domanda Vittoria: l'Italia è un paese dove conta dove nasci, le tue possibilità sono date anche dalla famiglia di provenienza? Te lo chiedo perché giustamente sottolinei con orgoglio la tua provenienza da una famiglia assolutamente normale.